24 mattino, estate, di Gigi Donelli. Sono le 7 e 24 minuti in questo istante. Un saluto a tutti da Gigi Donelli, da Peter Bescapè in regia. Dunque, oggi abbiamo tempo, spazio per approfondire un paio di temi intorno alle 8:20, 8:58, sapete la nostra fascia dell'ora successiva. Abbiamo scelto un tema dall'apparenza innocuo, quasi ingenuo, che è quello delle città e della colonizzazione delle città nel periodo estivo. Non è più come una volta, quando le città si svuotavano, ma pensate, continua come una volta una sorta di riadattamento alla città da parte di altre specie animali. Qualche giorno fa abbiamo visto sui quotidiani addirittura i servizi di sicurezza veterinaria sono dovuti intervenire per salvare un gibbone, quindi una specie di primate, un animale davvero che non dovrebbe fare parte del nostro habitat, per il suo bene ovviamente. E in realtà le nostre città si trasformano un poco, almeno durante l'estate. Ne parliamo con un esperto, con chi da ormai molto tempo si occupa di animali clandestini e anche di animali pericolosi, animali che a volte sono protagonisti di leggende metropolitane, a volte invece sono veri e propri pericoli di un territorio, anche quello urbano, in continua trasformazione. Un pericolo certo invece arriva dal fronte degli incendi. L'avete sentito, insomma sono centinaia di roghi cui corrisponde quasi sempre, davvero in questo caso, è l'uomo che rappresenta il pericolo per se stesso, dunque il piromane. Faremo un percorso attraverso, con l'aiuto del corpo forestale, attraverseremo Roma senz'altro, ma anche il sud, la Liguria, insomma zone critiche dove tradizionalmente molti si confrontano con questo rischio estivo. Naturalmente sono le condizioni generali favorevoli, quelli del caldo e del vento, dopodiché appunto ci mette pesantemente mano l'uomo. Tutto questo a partire dalle 8:20 circa. Adesso vediamo insieme i quotidiani oggi in edicola. Allora, i grandi successi dello sport. Abbiamo sentito poco fa Dario Ricci raccontarci la nuova giornata, una giornata davvero importante dello sport olimpico. Il grande protagonista globale è Usain Bolt, e dunque Strabolt oggi per la Gazzetta dello Sport, che trionfa appunto Bolt nei 200 con il 19:32, doppiando l'oro dei 100 come a Pechino. Nessuno dunque c'era mai riuscito. Dominio giamaicano che si completa con Blake Weir, e dall'altra parte, sul fronte dei numeri che resteranno nella storia, gli 800 di Rudisha, il kenyota, il Masai, che realizza un record davvero strepitoso. E poi e molto c'è anche di azzurro: da una parte il balzo nella storia di Donato, sempre nelle pagine appunto rosa della Gazzetta, parla di un fantastico bronzo dell'uomo normale. Nei giorni bui dell'atletica, il 35enne supera gli acciacchi, sale sul podio del triplo. Altra grande soddisfazione per la Grimaldi, e diventa dunque un ci salva lei, bronzo Grimaldi, la prima del nuoto arriva da Hyde Park. Infine, sul fronte dello sport tricolore, la fierezza di Josefa Idem, l'avete sentita: sono fiera dell'Italia alla faccia dello spread, dice in questa intervista nelle pagine interne. Dunque un quinto posto a 47 anni, e che conclude una straordinaria carriera con ottava Olimpiade. E sullo sfondo già peraltro una polemica che emerge: Josefa Idem, come dire, da tempo non è solamente una straordinaria atleta, ma si occupa di sport all'interno della comunità appunto in cui vive, assessore, insomma vari ruoli. Ieri contro Grillo, una patacca la definisce, il movimento reagisce duramente, è già polemica per ora soprattutto su Facebook, sul web, insomma, tra la grande atleta che ieri ha annunciato l'addio allo sport e il Movimento 5 Stelle. Vediamo allora quella che è invece brevemente le altre aperture, dunque lasciando lo sport, la BCE rilancia il nodo credito, l'apertura del Sole 24 Ore, Squinzi dice la crisi è forte, le imprese sono solide, investono e credono nell'Italia, BCE imprese a rischio insolvenza anche per Repubblica, così mentre per la stampa è un taglio centrale, ma il titolo d'apertura accanto a una grande foto di Bolt che vince nei 200 e gestisce il mondo è quella sulla trattativa tra partiti e Quirinale, le elezioni anticipate, lo spartiacque del 20 settembre. I timori della BCE per l'Italia sono invece in primo piano con i dati di Francoforte sull'economia dei paesi europei per il Corriere della Sera. Bene, sentiamo come vanno invece le cose sul fronte meteo questa mattina, poi torniamo subito dopo insieme. In primo piano. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, dunque la BCE che rilancia il nodo credito. In uno studio viene sottolineato il rischio insolvenza per le aziende quotate che risentono dell'andamento del mercato azionario. Per la banca centrale a soffrire sono soprattutto Spagna e Italia. Per il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi la crisi è forte, ma le imprese italiane sono solide, continueranno a investire, a credere nel paese. Il fondo di oggi del Sole è affidato Alberto Rioli, l'impresa italiana batte lo spread della sfiducia e dice guai se la guerra dello spread contamina le aspettative sulle imprese, le valutazioni sul loro merito di credito e giorno dopo giorno le fa diventare più severe e irrazionali fino a prosciugare i canali di accesso ai finanziamenti. Dunque la BCE lancia l'allarme sul rischio di insolvenza, ma usa un indicatore che considera solo gli scostamenti tra debito e capitalizzazione delle aziende quotate. È vero che in Italia aumentano i fallimenti, ma l'economia reale, che non viene registrata nei listini di Piazza Affari, pur essendo la vera spina dorsale dell'economia, combatte ogni giorno non solo per la propria sopravvivenza, ma anche per il proprio sviluppo. I distretti, le PMI, le multinazionali tascabili del Made in Italy finora hanno tenuto i mercati esteri, conquistano nuovi approdi per sfuggire al drammatico calo della domanda interna. Dunque mercati esteri, aziende non quotate, come spiega anche Rossella Bocciarelli nell'analisi della pagina 3, appunto sull'indicatore usato che si riferisce alle aziende quotate. E poi troviamo anche nelle pagine, o meglio nella prima pagina della sezione di imprese e territori, una descrizione di scenario firma di Marco Fortis, che si occupa proprio dell'export che rimane, scrive, nonostante tutto il motore dell'Italia, una fiammella da proteggere, una fiammella che è l'unica rimasta accesa in questi bui in cui la domanda interna è crollata sotto i colpi dell'austerità forzata. Sia chiaro, dice, il commercio estero rimane il nostro motore più potente e dinamico, capace di generare nel primo semestre 2012 un surplus al netto dell'energia di 32,6 miliardi di euro. Tra i paesi non solo europei ma dell'intero occidente, soltanto la Germania è capace di fare di più dell'Italia in termini di attivo con l'estero, escludendo i prodotti energetici. Ma i dati di giugno diffusi ieri dall'Istat indicano chiaramente che ormai anche l'export tricolore non tira più a causa della sensibile frenata del commercio mondiale, la seconda in 4 anni, anche se meno traumatica e profonda di quella di 2009. Insomma, l'Italia, scrive Fortis, può fare ben poco di fronte al deterioramento dello scenario internazionale. Il nostro export rimane comunque forte e competitivo, ma si sta fermando inesorabilmente assieme al mondo intero. Naturalmente la situazione italiana è speculare a quella degli altri paesi. Se le esportazioni del Made in Italy rallentano, diminuisce anche il nostro import e con esso l'export nei nostri principali partner verso l'Italia, sicché nel primo semestre di quest'anno la forte recessione della produzione industriale italiana, dovuta più al tonfo della domanda interna che alla frenata dell'export, ha ridotto i valori ed ancor più i volumi del nostro import di beni intermedi e strumentali. Insomma, un delicato gioco di equilibrio in cui l'export rimane un fattore centrale della nostra economia. Vediamo altre notizie dalle prime pagine. Abbiamo, come vi dicevo, la politica che viene affrontata in prima pagina dalla Stampa questa mattina, sulle trattative tra i partiti, il Quirinale e Marcello Sorgi scrive: sarà ricordata come l'estate delle elezioni annunciate, questa del 2012, in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà prima e dopo Ferragosto e per la prima volta i politici non andranno praticamente in vacanza, e non per paura dello spread e dell'attacco della speculazione contro l'Italia sui mercati, ma perché nelle due settimane più o meno in cui lasceranno Roma tenendosi a stretta distanza, i leader dei partiti della strana maggioranza, soprattutto loro, dovranno decidere una volta per tutte se sfidarsi in autunno, accettando la scommessa inedita del voto a novembre, o aspettare la scadenza naturale della legislatura nel 2013. Un patto ancora non c'è, ma la trattativa è aperta e da tempo, e c'è una data limite, il 20 settembre, oltre la quale lo scioglimento anticipato delle Camere è considerato improponibile per il Quirinale. Ecco, a proposito di trattative e avvicinamenti e lavoro in corso, insomma, sul fronte della politica, nelle pagine interne, in un articolo a firma di Francesca Schianchi, si sottolinea come i partiti siano ancora molto distanti dal definire regole comuni su come andarci alle urne, dunque, sulle regole ancora partiti divisi. E l'ex ministro Arturo Parisi dice: sono indeciso se definirla una beffa o una vergogna. Bianco, l'ex ministro Arturo Parisi, voce critica dei Democratici, è furioso, oggetto del discorso la legge elettorale che i partiti dovevano cambiare e invece ancora una volta rinviano a più avanti, a dopo l'estate. Quando posi la questione nel mio partito mi dissero di stare tranquillo, che il provvedimento sarebbe stato calendarizzato, ricorda rammaricato. Invece a settembre ne parleremo, sì, ma con un anno intero di ritardo, ed è un ritardo colpevole, tanto più grave perché preceduto da mille promesse. L'intesa è quasi fatta, entro l'estate sarà pronta la nuova legge, dicevano da destra e sinistra, promesse non mantenute. Ne è perfettamente consapevole il senatore del PD Enzo Bianco, relatore del provvedimento, che già nella scorsa legislatura aveva presentato una bozza per cambiare il porcellum. Da qui al 29 agosto prossimo, riunione del Comitato Ristretto della Commissione Affari Costituzionali del Senato, tenterà l'ennesima mediazione con il collega del PDL, Lucio Malan, per trasformare in un testo compiuto una bozza di principi di massima. Dice: non credo che riusciremo a sciogliere tutti i nodi, ma cercheremo di restringere molto i problemi per avere un testo su cui cercare un'intesa. Insomma, davvero un processo, una navigazione in alto mare sulla legge elettorale che tanto viene invocata all'interno delle indispensabili riforme, anzi quasi diciamo l'indispensabile precondizione per arrivare poi alle elezioni, quali che sia la data, ma come sentite la situazione è davvero in alto mare. Dicevo, i timori della BCE per l'Italia, quindi il titolo del Corriere della Sera, ma c'è anche un taglio basso sotto il volto sorridente, i volti sorridenti degli atleti delle Olimpiadi, che cattura la nostra attenzione. È un taglio, anche questo un taglio legato appunto alla lunga crisi, così la crisi fa fuggire un immigrato su 10, anche questo è un misuratore delle difficoltà, perché quando il lavoro manca, manca anche il lavoro nero, e dunque operai, badanti, infermieri, persino prostitute, per colpa della crisi gli immigrati lasciano l'Italia, lancia l'allarme Giovanni Dagat, fondatore dello sportello dei diritti, che rivela in 4 anni si è ridotto di oltre 3/4 il numero di arrivi e è aumentata notevolmente la quantità delle partenze. Il motivo è sotto gli occhi di tutti: chi lascia il nostro paese cerca un lavoro altrove. Non è raro, racconta, incontrare stranieri che affermano che per loro l'Italia non ha più nulla da offrire, che non è rimasto più neanche il lavoro nero, e punta il dito ovviamente contro il nord-est, il dito nel senso che è il luogo che ha prodotto maggiori posti di lavoro, che dopo essere stati per anni una meta privilegiata, ora è il luogo da cui gli stessi stranieri scappano, strozzati dalla mancanza di lavoro, dalla povertà. Il 20% di quella che era la comunità marocchina nella Marca Trevigiana è già andata via, conferma il presidente dell'associazione Atlas, mediatore culturale, appunto, che si occupa di questa regione. Ma se si potesse recuperare almeno una parte dei contributi pensionistici versati in tutti questi anni di lavoro, se ne andrebbe almeno l'80%. Per andare dove? Chi è rimasto senza un lavoro ha fatto tornare i familiari in Marocco, ci è tornato lui stesso, visto che il paese è in via di sviluppo, mentre altri sono andati verso altri paesi d'Europa, verso il nord, alla ricerca di nuove possibilità. Ancora dunque, Repubblica, vi dicevo, l'apertura, il titolo è, il tema è lo stesso, dunque BCE, le imprese a rischio insolvenza, così come ritroviamo il Bolt che domina e zittisce il mondo ed entra nella leggenda. In prima pagina richiamata anche la lunga battaglia di Aleppo, avete sentito anche ancora poco fa l'ultimo aggiornamento di Alberto Negri, l'inviato del Sole 24 Ore, che da Aleppo sta raccontando questa battaglia, appunto, in una parte della città. Sembra che in queste ore, diciamo, che i governativi abbiano ripreso il controllo di questa che, oltre a essere, diciamo, la seconda città della Siria, è soprattutto la prima per numero di abitanti, importanza e attività economica del paese. Dunque una battaglia sanguinosa che procede, e indipendentemente appunto da quello che accade, ed è già troppo, ad Aleppo, sono molteplici i focolai di scontro e di battaglia in Siria. Lo ricordiamo, ormai una protesta diventata vera e propria guerra civile che va avanti da oltre 17 mesi. E poi segnalazione invece, diciamo, regionale, sempre dalla prima di Repubblica, la reazione di Morsi: l'Egitto di Morsi distrugge i tunnel dei palestinesi, dunque offensiva del Cairo in Sinai contro i jihadisti di Gaza, dopo l'operazione che è stata sventata da Israele, ma che ha messo in grave imbarazzo, oltre a esserne stato poi la vittima, visto che i jihadisti hanno ucciso 12 soldati egiziani, insomma ha messo in gravissimo imbarazzo il neopresidente egiziano. Sentiamo la viabilità e poi torniamo ripartendo proprio da questa parte di mondo. In primo piano. Dagli esteri, dunque, vi dicevo, l'Egitto, la reazione del presidente Morsi, che nel Sinai lancia l'offensiva ai jihadisti palestinesi. Dunque ieri è iniziata un'operazione con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. L'uccisione, questa fa seguito all'uccisione di 16, non 12 come ho detto prima, guardie di frontiera da parte dei miliziani islamici. L'Egitto dunque ha deciso di tagliare le vie di accesso del paese dalla striscia, e lo fa, inizia a farlo facendo saltare quella rete di gallerie illegali da dove con tutta probabilità domenica scorsa è passato una parte del comando che ha compiuto la strage. I miliziani hanno attaccato nuovamente ieri un posto di polizia ad Al-Arish, nel nord del Sinai, e la risposta immediata in questa occasione è stata immediata. Si sono alzati in volo i caccia e sono arrivati i rinforzi. Insomma, Morsi intende affermare il controllo su questo sulla fetta egiziana di questo triplice confine con Israele e la striscia. Sembra deciso, appunto, a non lasciare apprendere a non far passare un messaggio del tutto sbagliato e ovviamente potenzialmente esplosivo in questa zona così critica per gli interessi egiziani. Altro tema invece per quello che è di cui abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi, il processo lampo a Gu Kailai, l'imperatrice in catene che imbarazza Pechino. Visetti su Repubblica racconta: il processo contro la moglie di Bo Xilai si apre e si chiude in 7 ore, ma nessun estraneo al potere cinese può assistere all'unica udienza e la sentenza non viene resa pubblica. Tutto questo accade a Hefei, una città blindata, da ore isolata da pattuglie dei reparti speciali. Fermati e identificati i giornalisti, bloccata su internet ogni voce connessa al caso, una trentina di dimostranti che vengono arrestati e portati via. Un eloquente paradosso della storia, se non la messa in scena del regime. Agenti comunisti che bloccano chi è venuto per manifestare a favore di Bo Xilai, ex astro nascente del partito, profeta del ritorno ai valori rivoluzionari del maoismo. In aula solo 2 diplomatici britannici, un centinaio tra parenti e imputati, parenti di imputati e vittima, ottengono dunque il permesso di entrare e Gu Kailai è costretta a muti avvocati d'ufficio. Insomma, il processo più imbarazzante per la Cina da oltre 30 anni si consuma tra mistero e censura, in un sistema, ricorda Visetti, in cui il 98% dei processi termina in un giorno con la condanna dell'imputato e dove i giudici di partito però si premurano di far sapere, ricordare che la moglie, che in questo caso la moglie del leader neomaoista epurato a poche settimane dal decennale passaggio del potere, in aula non ha contestato le accuse. Insomma, la resa incondizionata, così almeno registrata dalle autorità. Pechino infine sa che la Cina e il mondo seguono in queste ore un processo agiuridico per omicidio, ma guardano all'immagine drammatica di corruzione, tradimento, arricchimento e lusso che il delitto di Neil Heywood, lo ricordo, l'uomo d'affari britannico, ex amante di Gu Kailai, da cui sarebbe stata avvelenata, un caso che proietta sull'intera leadership comunista un'ombra davvero oscura. Questo per quanto riguarda due almeno dei grandi temi internazionali. Vediamo ancora le prime pagine. Fermate i fuochi e invece l'apertura a tutto campo di Avvenire, quotidiano che segue da molti giorni il doppio fronte: da una parte i roghi tossici, dall'altra i roghi appunto nelle foreste, di cui come vi ho anticipato torneremo a parlare con i protagonisti a partire dalle 8:30. Per la distruzione di 30 ettari il prezzo è di oltre 250.000 euro. Il bosco è di tutto, serve un controllo condiviso. Questi alcuni dei dati in una estate appunto che vede ritornare con grande forza e con maggiore drammaticità anche rispetto agli anni passati quello che è il fenomeno appunto degli incendi, e lo ripetiamo mille volte, incendi che non sono, se non in rarissimi casi, fenomeni naturali. Ancora la città di Fiumicino, la città è un lapsus sui generi visto che è talmente grande. Fiumicino, il volo è in ritardo, rissa a bordo, ferito il pilota. Questo tra le notizie oggi in prima pagina sul Messaggero, che naturalmente riporta quelli che sono tutti i principali temi, ma accade anche questo: il volo delle vacanze per la Grecia a 5 ore di ritardo, tra i passeggeri sale la tensione e alla fine scatta la rissa, un passeggero se la prende con il comandante che finisce al pronto soccorso. Anche questo accade negli aeroporti italiani, il tutto mentre si consuma una settimana molto delicata sul fronte dell'industria italiana del volo. Un punto viene fatto questa mattina da Ettore Livini su Repubblica: i voli low cost, l'illusione italiana in 10 anni, stop a 12 compagnie. Dunque, mentre arriva l'ultima chiamata per Winjet, che può finire ad Alitalia. Livini ci ricorda una storia, insomma, decisamente non fortunata, all'ombra di clamorosi successi come EasyJet e Ryanair. La stessa storia in chiave italiana è ben diversa, e dunque Gandalf, Mayer, Minerva Azzurra, Alpi Eagles, Air Sicilia, Alisea. L'elenco dei caduti, scrive Livini, è lunghissimo. C'è persino una società, la Air Salerno, che ha iniziato a vendere i biglietti senza aver nemmeno un aereo su cui far salire i propri passeggeri. Su questa selezione darwiniana ha ridisegnato la mappa del cielo tricolore, dove a fianco di Alitalia, che ha circa il 50% del mercato, fanno la parte del leone proprio EasyJet e Ryanair, mentre i pochi Highlander, in questo senso il connotato è naturalmente di sopravvissuti alla moria di compagnie, sono super ricchi come la Gacan, oppure coloro che non hanno preteso di volare troppo alto. In fondo, scrive Livini, l'Europa, almeno sul fronte dei martiri del low cost, è davvero unita. All'inizio anno è fallita la spagnola Spanair, lasciando 60.000 passeggeri a terra, e anche la potentissima Germania ha i suoi guai. La Air Berlin, ex fiore all'occhiello dell'aviazione teutonica, è arrivata sull'orlo del crack, e per salvarla ci sono voluti i petrodollari dell'Etihad, la compagnia degli Emirati Arabi. Intanto Winjet, per la tranquillità di chi ha in tasca un biglietto della compagnia, si accontenterebbe di un salvagente targato Italia. Questo sul fronte dei voli. Abbiamo ancora 2 minuti, allora completiamo rapidamente un percorso anche rispetto alle altre testate. Aziende, l'ombra del crack per il Giorno, mentre il Foglio Quotidiano, di fatto accanto al bollettino della crisi, ai temi internazionali come la guerra dei polls tra Obama e Romney, racconta la storia dell'ultima bambina e l'impegno dell'India, che giura nel giorno di Gandhi mai più aborti selettivi. Il feticidio sta riscrivendo la saga umana. In Asia mancano all'appello 100 milioni di femmine. Il fatto quotidiano, stiamo con i magistrati, già 43.000 firme. Avevamo chiesto una pioggia di adesione all'appello per rompere l'accerchiamento dei PM siciliani che cercano la verità sulla trattativa Stato-mafia. È arrivato un uragano, scrive oggi il Fatto Quotidiano. C'è un paese che non si arrende a intrighi e segreti di palazzo. Svendita con vista, invece, il titolo del Manifesto. Ex caserme, palazzi di pregio e castelli, ma anche uffici pubblici, ospedali chiusi dai tagli e beni di proprietà delle aziende municipalizzate. Il governo Monti avvia la dismissione del patrimonio immobiliare statale per fare cassa. Dunque svendita con vista, e per il secolo XIX, sotto un'ampia foto di Re Bolt nella leggenda, è Bersani il titolo d'apertura, che dice a Monti ora la patrimoniale. Infine, o quasi infine, legge elettorale, basta i rinvii per l'unità, un impegno inderogabile, dice il presidente della Repubblica. E la Padania, che dice il premier delle banche suicida le imprese, la BCE dice che le aziende sono insolventi. Questa è la lettura che ne dà questa mattina la Padania. Bene, con questa breve carrellata abbiamo concluso. Noi ci sentiamo a partire dalle 8:20. Adesso regia e GR24. A dopo. 24 mattino, estate. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelly. Sentite questa: due uomini trovano un piccolo cagnolino in metropolitana, lo prendono e lo portano a casa per farlo giocare con il loro Yorkshire. Escono per fare un po' di acquisti, tornano 2 ore dopo, non trovano più lo Yorkshire. Si scopre dopo che il cagnolino metropolitano è in verità un topo di fogna gigante messicano, e si è mangiato il cane. Insomma, di queste bufale o leggende metropolitane o racconti sugli animali, naturalmente il web è ricchissimo, sono buffi, fanno sorridere al di là della realtà. Come non ricordare quante volte i coccodrilli bianchi perché sbiancati dalle sostanze, appunto dagli scarichi, sono stati segnalati in varie parti degli Stati Uniti. A volte però appaiono degli animali davvero clamorosi, davvero incongruenti nel contesto urbano. L'ultimo, il gibbone Thai, forse l'avrete visto, se ne è parlato, un esemplare di gibbone dalle mani bianche, una specie minacciata di estinzione, sequestrato in un quartiere di Milano. Adesso il gibbone Thai abita al Bioparco di Roma e pensate, poveretto, non conosce, non ha mai, sembra che non abbia mai conosciuto un suo simile, ed è adesso affidato alle cure del personale specializzate del Servizio del Corpo Forestale dello Stato. Insomma, animali clandestini, animali che entrano nella nostra vita, e a volte in maniera volontaria da parte nostra, evidentemente, a volte in maniera del tutto involontaria. Ne parliamo questa mattina con un biologo che è anche ricercatore e scrittore su questi temi, si chiama Marco Di Domenico. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Dunque, animali che entrano involontariamente o volontariamente a far parte di quella grande famiglia che è quella degli animali da compagnia, cani e gatti per intenderci, sono circa una quindicina di milioni nel nostro paese, ma le cose sono cambiate rapidamente negli ultimi anni. Secondo alcune stime, tra tartarughe e pappagalli, che sono diciamo l'avanguardia degli animali esotici, poi tanti altri, mi viene in mente il gerbiglio che è stato a sua volta effetto di una grande moda, se non sbaglio arriva dalla Mongolia. Insomma, si parla di almeno 12 milioni di animali altri nel nostro territorio. Qual è il quadro complessivo? È davvero così, come dire, così cambiato il panorama della presenza animale in Italia? Sì, è cambiato completamente per vari motivi, perché c'è in atto questa cosa che si chiama globalizzazione biologica, per cui un po' spontaneamente, ma soprattutto grazie all'opera dell'uomo, gli animali tendono a essere un pochino ormai tutti dappertutto, per cui arrivano animali, passano da un continente all'altro, e il fenomeno degli animali domestici esotici, diciamo così, si inquadra un po' in questo fenomeno più ampio. Quindi ormai nelle case c'è di tutto, gerbilli come si diceva, ma anche i ratti che sono stati utilizzati per decenni nella sperimentazione, adesso sono diventati animaletti da compagnia, furetti, ma poi ci sono grandi carnivori, serpenti, iguane, purtroppo scimmie, e c'è da dire che la stragrande maggioranza di questi animali sono fuori legge, perché ci sono leggi internazionali che vietano la commercializzazione e il fatto che uno possa tenerli in casa, però le leggi vengono aggirate. In Italia, come nel resto del mondo, c'è gente che ha dei veri e propri zoo abusivi dentro casa. Insomma, è un fenomeno piuttosto allarmante. Ecco, Di Domenico, dire che alcuni di questi animali, sì, prego. No, dicevo, animali fuori legge, animali clandestini, lei li ha proprio studiati e mappati. Nel nostro paese chi sono un po' i campioni di questa clandestinità biologica e di questa globalizzazione biologica? Sì, sì, nel nostro paese, come ripeto, in tutti i paesi del mondo, ma certo, non solo globale. Il nostro paese è anche un ponte tra l'Africa e il Nord Europa, per cui ha anche delle caratteristiche ecologiche che fanno sì che molti di questi animali arrivino e poi riescano anche a fuggire dalla cattività e a naturalizzarsi, quindi diventano animali urbani e fanno parte del paesaggio cittadino. Pensiamo solo ai pappagalli di Roma o di Genova, ma anche a molte altre specie. A Villada, a Roma, ci sono i Tamia, che sono dei graziosi scoiattolini di terra che scorrazzano tranquillamente, mentre sopra volano pappagalli. Nei laghetti ci sono pesci americani, quindi insomma ormai siamo completamente invasi, e ripeto, il fenomeno è in generale molto, diciamo, dipende molto dall'azione dell'uomo, che per troppo tempo ha spostato animali da una parte all'altra del pianeta senza prevedere le conseguenze di questo di questo fenomeno che adesso invece stiamo purtroppo subendo, insomma. Ecco, ma rispetto per esempio ai signori del nostro territorio, Roma, pensiamo ai gatti, Roma e non solo, insomma, i gatti, la loro capacità di adattamento, compagnia, ma addirittura grande autonomia che li rende più efficienti sul piano biologico rispetto ai cani tante volte. Ecco, questi nostri campioni locali rischiano qualche cosa nel lungo periodo rispetto alle altre presenze che arrivano da fuori? In molti casi sì, perché a volte gli animali che arrivano da fuori, non perché siano brutti e sporchi e cattivi, no, ma certo, perché per il solo fatto di potersi adattare ad ambienti diversi dal loro luogo d'origine, significa che sono animali estremamente adattabili e quindi vincenti da un punto di vista ecologico, e a volte a farne le spese sono le specie autoctone, che magari hanno un tasso riproduttivo meno veloce, sono più piccole o meno onnivore. Per esempio mi viene in mente la competizione tra scoiattolo grigio e scoiattolo europeo, che per esempio in Inghilterra ha portato alla totale estinzione o quasi della specie europea a scapito di quella americana, e siccome lo scoiattolo grigio è anche presente in molte parti d'Italia, si teme che questo possa accadere anche da noi. Quindi insomma, gli animali che arrivano da fuori, se riescono ad adattarsi, spesso si rivelano vincenti rispetto ai nostrani, tra virgolette, ma questo succede anche con gli animali europei che vengono esportati altrove, insomma, non è un... Certo, non è... Noi siamo sempre le vittime. Assolutamente, è uno scambio. È uno scambio, una trasformazione, ma ci dica un'altra cosa. Lei ha lavorato anche sulla pericolosità in un suo libro recente, Italiani pericolosi, e questi italiani pericolosi non sono, in questo caso umano, leggende e verità sugli animali di casa nostra. Chi sono i pericolosi? Sì. Pericolosi sono l'insieme degli animali che, almeno a mio avviso, insomma, che costituiscono un pericolo reale o comunque oggettivo nei nostri confronti. Qui però non si parla di animali esotici, perché noi nella nostra piccola e affollata Italia ospitiamo qualcosa come 50.000 specie animali e dobbiamo un po' accettare. Quante ha detto? Scusi, ho sentito male. Quanti sono? Circa 50.000 specie 50.000 animali. 50.000 specie animali. Siamo il paese a più alta biodiversità in Europa, anche per motivi proprio geografici, nel senso che noi siamo un ponte tra il centro dell'Europa e l'Africa, per cui nei nostri confini si va dalle Alpi, che vuol dire un clima boreale fondamentalmente, polare, fino alle isole della Sicilia e della Sardegna, che hanno un clima subtropicale, per cui è chiaro che questo vuol dire biodiversità estrema, e questo vuol dire che c'è una natura ancora estremamente ricca, con tantissime specie animali, e dobbiamo un po' accettare il fatto che nella natura è insito un minimo di pericolo, e noi non possiamo pretendere di vivere in maniera sterilizzata, se non vogliamo vivere sotto una campana di vetro, come si dice, per cui dobbiamo, secondo me, sapere che ci sono dei pericoli relativi. Che per esempio? Per esempio le vipere, le vespe, alcune specie di ragni, alcuni animali marini come meduse e attinie, alcuni vermi marini, pesci che hanno spine velenose, anche animali molto comuni, non si parla di rarità, insomma. Pensiamo che nel nostro paese ospitiamo 4 specie di vipere, per esempio, e per quanto il morso delle vipere sia rarissimamente mortale, però non è mai uno scherzo essere morsi da una vipera, quindi bisogna un po', secondo me, conoscere un po' di più la natura che ci circonda, e con la natura anche quel piccolo grado di pericolosità che la natura si porta con sé, perché è ovvio, è naturale appunto che sia così, insomma. E non da oggi. Grazie a Marco Di Domenico, lo ricordo, biologo, autore del libro Italiani pericolosi, leggende e verità sugli animali di casa nostra, in una stagione, quella appunto estiva, in cui noi cambiamo le nostre abitudini, per quanto questo sia un anno tutto particolare, quindi meno partenze, meno presenze sul mare, ma insomma il mare, ovviamente la nostra frequentazione si concentra in queste fasi dell'anno, e anche lì avete sentito, facciamo i conti con qualcosa che è molto classico, a cominciare dalle meduse, non di meno può essere fastidioso. Grazie a Marco Di Domenico, adesso un saluto a lui, buon lavoro, adesso ci lasciamo per qualche momento, poi torniamo a parlare invece di un'altra specie pericolosa, soprattutto quando è decisa a fare e farsi del male, in questo caso è l'uomo. Parliamo di incendi e ripartiamo da Roma con chi è al lavoro proprio in queste ore sul fronte degli incendi. A tra poco. 24 mattino, estate. minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli. Dunque, abbiamo parlato di animali, animali clandestini, animali pericolosi, animali nelle nostre città e di minacce. Qui invece minacce vere e presunte, abbiamo anche giocato un po' sulle leggende metropolitane. Di certo invece non è una leggenda quello che accade in queste ore con una ricorrenza di stagione. Basta un titolo: incendi dolosi in tutta Italia, torna a bruciare anche Montemario. Questo era stamattina proprio il, questo è stamattina il Messaggero. Leggiamo: nel Lazio erano 11 fronti di fuoco contro cui da ieri mattina combattono i vigili del fuoco. Soltanto a Roma gli incendi sono stati 17. Allora io direi di ripartire proprio dal punto della situazione. Con noi vi presento a momenti anche gli altri ospiti, ma comincerei da Marco Pezzotta, che è vice questore aggiunto del Corpo Forestale dello Stato. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, situazione di questa mattina, come vanno le cose? Io citavo un 11 fronti di fuoco. Nel Lazio in questo momento abbiamo un unico intervento attivo ad Artena, in provincia di Roma. C'è stata effettivamente confermo quella segnalazione di Roma Montemario, che peraltro non ha avuto riscontri, quindi per fortuna non sembra che ci sia una ripresa attiva in questo momento dentro il centro della città. Insomma, la situazione questa mattina sembra più calma, d'altra parte è una fase in cui voi siete abituati a prepararvi al massimo allarme. Agosto è il vostro momento critico? Sì, diciamo il momento critico sono i due mesi, diciamo da metà luglio fino a metà settembre. Qui adesso siamo nel clou delle operazioni, siamo in una fase di ordinaria emergenza, diciamo così. Ecco, il Corpo Forestale che ruolo svolge esattamente affiancandolo a quello dei Vigili del Fuoco? È un'amministrazione dello Stato primaria in una lotta che è interforze. La lotta attiva agli incendi boschivi è una prerogativa delle regioni con le quali noi e i Vigili del Fuoco collaboriamo in regime di convenzione a livello regionale. A livello statale siamo amministrazioni dello Stato, siamo strutture operative del Dipartimento di Protezione Civile, operiamo come forza di polizia in autonomia ovviamente dalle regioni per l'attività di prevenzione e di pronto intervento, e siamo all'interno del sistema di protezione civile. Per esempio io in questo momento sono di turno in protezione civile nella centrale operativa che invia i Canadair e gli altri velivoli della Sottotele di Stato. Ecco, in questo momento i Canadair dove sono? Sono in volo? Sono in attesa? In questo momento ne abbiamo 7 in volo e gli altri sono in attesa. Abbiamo un fire 7 Canadair in volo in questo momento su 6 interventi attivi. 6 interventi attivi, in questo caso si copre l'intero territorio nazionale? Bene, abbiamo uno in Umbria, uno nel Lazio, 2 in Calabria e 2 in Sicilia. Insomma, una distribuzione piuttosto ampia. Per decidere di far volare un Canadair, immagino ci sia, diciamo, denuncia, segnalazione, verifica, c'è un meccanismo che pretende una definizione chiara dell'allarme, o semplicemente c'è un pattugliamento e quindi eventualmente poi si interviene o meno? No, noi non prevediamo assetti in pattugliamento armato, come si dice, contrariamente a quello che avviene per esempio in Francia, in Corsica. Loro hanno i mezzi in continuazione in giro, sia quelli terrestri che quelli aerei, pronti a intervenire in volo. Noi viceversa abbiamo una modalità operativa differente, su segnalazione o da parte degli organi competenti per l'avvistamento o da parte dei cittadini che chiamano i numeri di pubblica utilità e di pronto soccorso, parte una verifica della segnalazione e quindi il personale specializzato a terra richiede il concorso dell'intervento aereo. E quindi questo poi viene fatto partire attraverso il sistema delle centrali operative. Quindi solo a verifica confermata? Solo a verifica confermata. fermata perché ogni tipo di intervento richiede una, diciamo così, prestazione specialistica, se vogliamo. Non basta una segnalazione per dire che serve un Canadair, e inoltre tenga conto che le segnalazioni sono tantissime, sono centinaia. Se su ogni segnalazione, senza la minima verifica, si dovesse mandare in volo un mezzo, i costi per la collettività sarebbero assolutamente insostenibili. Centinaia di segnalazioni con una percentuale di rispondenza al vero di circa prossima cosa? Guardi, fluttuano le cose per vari motivi. Primo, ci sono molteplici segnalazioni sullo stesso evento. Certo. Poi vi sono segnalazioni relative a colonne di fumo che non sono in realtà incendi su cui si debba intervenire. Poi ci sono le chiamate di disturbo, ovvero quel fenomeno assolutamente incivile delle telefonate che magari i gruppi di ragazzi fanno per farsi due risate. C'è un insieme di situazioni molto diverse. Chiamate di disturbo, già immagino che abbiate, appunto, avete a che fare anche con questo. In tutto questo, lei l'ha già detto, lei e i suoi colleghi molto chiaramente, ma vale la pena di ripeterlo. Quanti di questi incendi? Beh, innanzitutto l'incendio naturale, no, credo di non dire una sciocchezza, praticamente non esiste. La distinzione semmai è tra doloso e accidentale. Sì, esattamente, tra dolosi e colposi. E colposi. L'incendio naturale esiste virtualmente in natura, ma è confinato a ciò che viene causato da eruzioni vulcaniche, da fulmini a ciel sereno. Sono dei fenomeni. Va bene, statisticamente, nella nostra attualità, questo sistema che mobilita in queste giornate migliaia di persone, lei ha citato i costi sociali. Ovviamente queste sono emergenze che richiedono grandissima disponibilità di mezzi e di persone. Se mettessimo complessivamente tutte queste persone, vigili del fuoco, il corpo forestale, i piloti, stiamo parlando di migliaia di persone che in Italia si occupano di questi problemi in queste giornate. Scusi, mi sono perso. Dicevo, migliaia di persone che lavorano intorno a un'emergenza che essenzialmente è causata, appunto, dall'uomo. Sì. E quindi qual è la domanda? Quante persone sono coinvolte in questa emergenza, a suo avviso? Sono tante, io non posso quantificarle i numeri giorno per giorno, però ogni ufficio ha le sue pattuglie operative, in ogni amministrazione dello Stato ci sono tantissime squadre di volontari impegnate costantemente, ogni centrale operativa ha il suo personale che ruota per 24 ore al giorno, ci sono gli operai delle comunità montane impegnati anche loro nelle operazioni di spegnimento. È una macchina estremamente complessa. Una macchina davvero grande, d'accordo. Ecco, prima ci ha detto colposo e doloso, quanti sono gli incendi dolosi sul totale degli eventi? Dipende dalle realtà sociali locali, l'incendio boschivo è un fenomeno sociologicamente parlando complesso. Sul lungo periodo e su una media territoriale vasta si equivalgono sostanzialmente, cioè abbiamo il 50% di eventi dolosi e il 50% di eventi colposi. In realtà locali specifiche, per motivi specifici, possono aumentare i dolosi nel momento in cui ci sia un elemento, diciamo così, di manipolazione sociale dell'evento incendio, come viceversa possono aumentare i colposi in contesti prevalentemente agricoli o turistici. Per certo, tra l'altro, appunto, il turismo è un elemento importante in questa storia. Saluto e do il buongiorno anche a Angelo Marciano, che è il vicequestore aggiunto responsabile del Corpo Forestale della provincia di Benevento. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e ai radiospettatori. Com'è la situazione invece dalle vostre parti? In Campania questa mattina la situazione, diciamo che tutto sommato, vede pochi focolai. La regione Campania purtroppo è una delle regioni maggiormente colpite in Italia, infatti lo scorso anno è risultata la prima regione per numero di incendi, anche se devo dire che poi la superficie percorsa dal fuoco in realtà non è ai primi posti in Italia. Questo significa che, pur tra tante difficoltà che comunque vi sono, c'è una macchina organizzativa che permette di intervenire abbastanza tempestivamente per fermare i roghi. Infatti le superfici percorse per numero di incendi è contenuta intorno ai 2-5 ettari. Ecco, è una, immagino sia molto una questione di tempestività nella reazione, perché chi... Ma decisamente, perché come diceva il collega in precedenza, l'incendio è provocato sempre dalla mano dell'uomo, in natura non esiste l'autocombustione, almeno nei nostri ambienti, ecco. E bisogna intervenire tempestivamente perché da ogni piccolo fuoco poi si può generare appunto un rogo. Noi per le nostre attività normalmente diciamo che dal momento in cui l'incendio ha inizio, il fuoco ha inizio, bisogna intervenire nel giro di una mezz'oretta. Se si interviene nel giro di mezz'ora tutto si risolve per il meglio, se no viceversa possono crearsi appunto questi roghi che poi diventano ingestibili perché gli incendi si allargano, c'è bisogno del ricorso del mezzo aereo e che poi in queste condizioni come di questi giorni con temperature che sfiorano i 40 gradi, con siccità e con vento ovviamente diventa tutto più complicato. Ci sono tutte le condizioni ottimali naturalmente per le fiamme, non per chi deve lavorare a spegnerla. Saluto anche Renzo Morolla che, con cui completiamo un po' questo giro d'Italia su questo fronte, Corpo Forestale della Liguria, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Un'altra zona d'Italia storicamente molto sensibile, ci dica qual è la situazione oggi. Infatti la Liguria devo dire che purtroppo non ha neanche la stagionalità degli incendi, gli incendi sono presenti tutto l'anno e in qualsiasi stagione, visto il clima particolare della Riviera Ligure. Detto questo, in questi giorni abbiamo avuto negli ultimi due giorni circa 15 segnalazioni, di cui 11 il giorno 8 e 4 ieri, tutte spente, persino un intervento in territorio francese in prossimità del confine italiano per evitare che incendi venissero verso l'ambito nazionale. Detto questo, sono tutti piccoli incendi, quindi presi sul nascere dal sistema terrestre con solo qualche intervento così sporadico dell'elicottero leggero. In questi giorni si è parlato, soprattutto nel caso di Roma, c'è stata una polemica sui mezzi a disposizione, allora poi torniamo su Roma. In Liguria siete attrezzati rispetto alle esigenze con cui dovete fare i conti? Ma in Liguria in questo momento ci sono 4 elicotteri leggeri noleggiati dalla regione e quindi gestiti in via diretta dal Corpo Forestale dello Stato in quanto alla gestione della sala operativa unificata permanente in Genova, quindi c'è una catena di comando molto breve, ristretta e riguarda Regione, Corpo Forestale, volontari antincendio boschivi e vigili del fuoco, quindi c'è un'ampia sinergia. Peraltro è anche quasi sempre presente, dipende anche dalle realtà che si sviluppano in altre parti del territorio nazionale, il mezzo aereo all'aeroporto di Genova, quindi molto spesso è presente uno o due Canadair che ci consentono, visto anche comunque la vicinanza del mare agli incendi, infatti si sviluppano tutti nella fascia costiera, ci consentono comunque di sviluppare nel momento stesso in cui le condizioni climatiche attuano, quindi la possibilità di sviluppo di grandi incendi, un'azione di repressione diretta, quindi di soppressione diretta degli incendi in modo molto efficace. Torniamo tra qualche momento dai nostri interlocutori, abbiamo anche un ascoltatore che ci chiama dalla Sicilia, ora però è tempo di sentire le notizie per chi è in viaggio invece sulle strade italiane. 24 mattino, estate. E allora andiamo subito ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24, dalla provincia di Trapani. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Io sono un agricoltore, guardi, di Calatafimi. La mia azienda agricola è situata proprio di rimpetto, su una collina, proprio di rimpetto il Monte Bonifato di Alcamo, che è limitrofo, diciamo, al comune di Calatafime, dove c'è una bella riserva con una grande pineta. In linea d'aria sono a un chilometro circa dalle falde del Monte Bonifato. Cosa vedo ogni anno dalla mia azienda agricola? Vedo che nelle giornate di vento, non necessariamente molto caldo, ma ci deve essere vento, viene appiccicato sempre il fuoco tra il chilometro 3,5 e il chilometro 5,5 da una macchina che correndo lancia qualche cosa e si sviluppa il fuoco. Io la vedo in lontananza, talvolta anche col binocolo, e la macchina va via. il fuoco prende le stoppie, perché si inizia a bruciare dal margine della strada le stoppie, e sale su fino a che arriva poi alla brughiera privata, ottimo pascolo, e poi alla brughiera pubblica, e poi arriva a lambire il bosco, talvolta con grande danno, talvolta intervengono i vigili del fuoco e la protezione, insomma si riesce a... Però è una cosa che si ripete ogni anno. Ora, secondo me, c'è qualcuno che interessa sicuramente a pulire i pascoli dai rovi, dalle spine, dalla macchia mediterranea, dai canneti, perché con i rovi, le spine, i pascoli in autunno vengono molto più scadenti. Non è consentito, soprattutto alle gregge, poter pascolare bene. Ora, secondo me sarebbe fin troppo, non dico facile, ma non difficilissimo, poter scoprire chi è. Basterebbe nelle giornate di vento, in tuta mimetica, che delle forze dell'ordine... Prepararsi. Chiarissimo, Giovanni, lei ci ha spiegato, devo dire, in maniera molto... appunto limpida, ci ha portati letteralmente in questa visione delle giornate di vento e di un rituale, chiamiamolo così, che si ripete. Pezzotta, a proposito di assicurare alla giustizia i piromani, si riesce, vengono catturati o la fanno franca fondamentalmente? Il caso citato dall'ascoltatore è quello di un incendiario, non di un piromane, è una persona che scientemente dà fuoco per suoi interessi personali. Noi registriamo dall'inizio dell'anno 8 arresti in flagranza di reato e quasi 270 denunce a piede libero. Si lavora attivamente anche su questo fronte, che è molto importante, perché la repressione dell'illecito ha delle conseguenze dirette sulla prevenzione in quanto fattore deterrente. Quindi cosa le posso dire? Si lavora in ogni nostro ufficio, in ogni regione. Insomma, 8 arresti, lei dice questo sul territorio nazionale, che è un numero lontano. Rispetto agli eventi? È un numero lontano rispetto al numero di eventi, però tenga conto che l'arresto in flagranza è un fatto difficilissimo, perché certo, bisogna trovarsi proprio di fronte alla persona col cerino in mano, e lei capisce proprio come mia la probabilità è una cosa... Sì, è una battaglia aleatoria, davvero tremenda, perché ci vuole un attimo a dare fuoco. Infatti in realtà la macchina della repressione non conta tanto sulla flagranza testimoniata, quanto su indagini lunghe e complesse che arrivino a ricostruire i fatti e quindi conseguentemente gli autori. Perché le pene in Italia, il reato c'è ed è anche sanzionato in maniera molto ferma. Assolutamente pesante, sì. Lei pensi che potrebbe arrivare a una pena detentiva di 10 anni il reato doloso di incendio boschivo. Allora, abbiamo ancora un ascoltatore da Roma, Andrea, buongiorno. Buongiorno, ho una curiosità, sì. Grazie alle persone che sono in trasmissione adesso. L'uso dell'acqua marina per spengere gli incendi, al netto di altre considerazioni di convenienza o di prossimità, pone dei problemi tecnici ed ecologici? Allora, grazie Andrea, una domanda precisa. Acqua marina per spegnere gli incendi. Chissà, magari ci vuole rispondere Renzo Morolla dalla Liguria, dove appunto il mare è il bacino, immagino, di raccolta, il principale per l'acqua di spegnimento, oppure no? Sì, guardi, tolto alcune regioni canadesi che possono utilizzare anche i laghi interni che hanno acqua dolce, effettivamente il grosso dell'impiego, sia quello francese, quello spagnolo e anche il nostro, è l'impiego di acqua marina tra i laghi interni che vi sono presenti. È un discorso di costo-opportunità, un bosco bruciato è un bosco comunque che non è completamente distrutto ma è fortemente danneggiato. Ritengo che certamente il sale, le percentuali di sale dell'acqua non facciano bene, ma ritengo che tra i due mali, quello di evitare l'espansione di un incendio boschivo e quello dell'acqua marina, forse sia l'inferiore anche quello. Tra l'altro bisogna anche dire che al di là dell'acqua marina alle volte si utilizzano anche dei ritardanti o delle schiume, che anche questi comunque sono dei sali perché l'effetto del sale all'interno di un estinguente come l'acqua ha un'azione di blocco in parte, comunque parziale, della reazione chimica di combustione. Quindi diciamo che non fa bene alle piante né l'impiego di ritardanti o di sostanze schiumogene o di acqua di mare, però ritengo che di fronte a un incendio boschivo non esistono se o ma, ecco, questo è fondamentale. Ecco, prima sentivamo anche dai nostri ascoltatori come appunto ci siano certi momenti, certe dinamiche, il vento in primo luogo. Allora volevo sentire da Angelo Marciano come, insomma, per voi di fatto c'è un calendario, voi tenete d'occhio il meteo, visto che le condizioni, insomma, se è una giornata coperta di pioggia ci sarà, immagino, ben poca probabilità di questi inneschi. Ecco, da qui alle settimane a venire, per cui l'allarme, Marciano, resterà altissimo. Beh sì, sicuramente. Noi abbiamo in Italia il fenomeno degli incendi boschivi che vede una concentrazione nel periodo estivo soprattutto al sud. In Campania, per esempio, il 65% degli incendi si verifica nel periodo che va dal 20 di luglio al 10 di settembre. Al nord invece la situazione è esattamente rovesciata, nel periodo invernale che si verificano gli incendi, ad eccezione ovviamente della Liguria che ce l'ha tutto l'anno e parte della Toscana. E, ovviamente il vento rimane il nostro peggior nemico, nel senso che è molto difficile fronteggiare le fiamme quando c'è vento forte, ed è il migliore alleato ovviamente per gli incendiari, perché coloro che vogliono accendere dei boschi, bruciare dei boschi o rinnovare i pascoli, come spesso accade, ricorrono ovviamente a questa attività nelle giornate in cui c'è maggior vento. Molti interessi economici, molti interessi a tutto campo. Certo, l'incendiario ovviamente agisce perché deve ricavare un qualche interesse. Noi abbiamo ricostruito in questi anni un po' il profilo delle persone che si dedicano a questa attività criminale, e abbiamo distinto tre profili: quello dell'incendiario doloso, appunto, che è quello che brucia per ricavare un qualche interesse, l'incendiario colposo, che è quello che brucia dei residui vegetali nelle campagne in maniera disattenta e poi si fa scappare il fuoco e questo va a finire nei boschi e provoca grandi disastri, che a volte si avvicina anche ai centri abitati provocando grossi problemi di pubblico soccorso, di protezione civile, di ordine e sicurezza pubblica. E poi c'è il piromane, che è appunto quella persona che è affetta da un disturbo della personalità e che brucia perché gode dal piacere di vedere le fiamme. Ecco, tutto questo fa parte della nostra quotidianità. Io ringrazio Angelo Marciano, ringrazio Renzo Morolla e Marco Pezzotta. Dunque, buon lavoro a tutti voi, alle squadre dei Vigili del Fuoco, a chi si occupa appunto del coordinamento di questa emergenza stagionale. Non solo, abbiamo sentito 8:57, adesso è tempo di sentire insieme gli aggiornamenti da GR24. Poi vedo già Gianfranco Fabi pronto per portarci, credo, lontano questa mattina, ma tutto questo lo sentiamo tra qualche momento.